Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera, benvenuti a Mr. Kilowatt. L'Italia è oggi uno dei paesi con la maggiore produzione al mondo di energia geotermoelettrica, cioè energia che viene prodotta a partire dai fluidi caldi che si trovano nelle profondità della Terra e che in alcuni luoghi, e particolarmente in Italia, arrivano molto vicini alla superficie. In pratica si capta del liquido, del vapore sotterraneo, lo si manda dentro una turbina e questa produce energia elettrica. Questo primato italiano, siamo forse secondi o terzi al mondo, è però frutto di una rendita di posizione, visto che lo dobbiamo sostanzialmente alle centrali di Larderello, che sono state costruite nella prima metà del Novecento e in seguito potenziate. Ma di nuova energia geotermoelettrica, abbiamo imparato questo termine oggi, in Italia non se ne fa ormai da un bel po' di anni, a mio avviso colpevolmente. Sta di fatto che è di questi giorni una notizia interessante, molto interessante, un progetto che potrebbe riproiettare l'Italia, diciamo così, tra le stelle della geotermia. Parliamo della realizzazione al largo della costa siciliana delle prime centrali geotermiche offshore al mondo. Protagonista di questo scatto in avanti, una piccola media impresa, avete capito bene, piccola media impresa, specializzata in opere di ingegneria naturalistica, e parliamo della Eurobuilding. In linea con noi c'è Diego Paltrinieri, che è geologo marino e responsabile del progetto. Buonasera Paltrinieri. Buonasera, buonasera a voi. Allora, abbiamo detto quattro centrali geotermiche che andranno a sfruttare il calore prodotto da un vulcano sommerso. Ci dia qualche dettaglio in più, a partire da quale vulcano? Sì, certo, la ringrazio intanto di questa opportunità. Il vulcano in questione è il vulcano Marsili, Monte Marsili, che è il vulcano più grande d'Europa, effettivamente, perché stiamo parlando di una struttura che partendo dalla piana batiale di 3800 cioè metri, dal fondale marino, che in realtà è un fondale oceanico tecnicamente, quello in del realtà è un fondale oceanico, esattamente, si innalza fino, diciamo, a 600-700 metri dalla è una montagna di 3000 metri e un mare profondo 3007, più grande praticamente dell'Etna, esattamente, lungo 70 km e largo 25, ed è, diciamo, uno dei tanti vulcani di quest'area marina, che è un'area particolare perché il Tirreno meridionale, pur avendo queste profondità, ha una temperatura dell'acqua nel fondale che sta tra i 10 e i 13 gradi, e questa è una cosa che pochi sanno, ma che in effetti è un dato anomalo, particolarmente eclatante, che ha fatto scattare qualche sì. domanda, ovviamente, perché normalmente la temperatura lì è di qualche grado, molto vicino allo zero di solito, a quelle sì, profondità sì, lì, sì, no? Esattamente, siete pochi gradi sopra lo zero, esattamente. 3 o 4 al massimo. Esatto. Ecco, e voi andrete su questo vulcano, che cosa farete? Ma guardi, lo scenario finale, se vogliamo un attimo proiettarci nel futuro, anche per, è quello di costruire quattro piattaforme galleggianti che possano produrre complessivamente tra 800 megawatt e un giga, quindi numeri importanti, perché stiamo parlando di geotermia come quella che lei citava all'inizio di Larderello in Toscana, che è complessivamente vale quella roba lì. Ecco, allora, quattro piattaforme galleggianti, quindi molto simile a delle piattaforme petrolifere, giusto? Che giusto. Manderanno giù dei tubi che scaveranno dei pozzi da cui tirerete fuori questo fluido bollente. Esatto, diciamo che la ricerca scientifica vera e propria è stata fatta tra il 2005 e il 2006, ed è partita da un'idea del professor Patrizio Signorini, che è un po', diciamo, l'ideatore, la Eurobuilding ha siato l'Università poi un di gruppo, Chieti, vero? L'Università di Chieti, esatto, mi perdono, l'Università di Chieti, e l'Eurobuilding ha organizzato un pool formato in pratica dagli istituti di ricerca più importanti a livello nazionale e europeo, come l'INGV, il CNR di Geologia Marina, ISMAR, l'Università appunto di Chieti, il Politecnico di Bari. Ecco, insieme è stata organizzata questa campagna che ha dato effettivamente dei riscontri oggettivi alla maturità geotermica, in questo caso parliamo appunto del più grande, che è il Marsili. Ce ne sono altri, ma gli altri sono ancora, diciamo, da valutare, da studiare. Questo è stato studiato, tant'è che poi il Comitato Tecnico dello Sviluppo Economico del Ministero ha rilasciato l'Eurobuilding, dopo questo percorso, questo primo permesso di ricerca. Senta, ma non c'è qualche rischio per l'ambiente marino? Abbiamo visto cosa è successo nel Golfo andando a perforare sott'acqua. Ecco, guarda, la ringrazio della domanda, perché stiamo parlando di scenari totalmente diversi, a partire proprio dalla materia prima. Nel Golfo del Messico e in altre situazioni analoghe abbiamo individuato problematiche problematica legata agli idrocarburi, quindi un sistema totalmente estraneo all'ambiente marino e non in comunicazione, quando lo è appunto crea un disastro. In questo caso parliamo di acque calde, ricche di sali, ma che già interagiscono con il sistema marino, perché questo sistema è acqua calda in pressione, per banalizzare, ma è in continua interazione con l'ambiente marino, tant'è che abbiamo anche individuato geyser sottomarini e questo è uno dei motivi per i quali il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato la valutazione impatto ambientale per questa fase. Senza battere ciglio, insomma, perché praticamente da questa fonte sotterranea già viene rilasciata sul fondale del mare dell'acqua che proviene da lì, quindi voi non potete fare danni praticamente. Assolutamente no. Senta, adesso quali saranno i prossimi step, molto rapidamente? Molto rapidamente, il permesso di ricerca prevede una campagna esplorativa finalizzata ad individuare il punto ottimale per quello che è il pozzo pilota, che sarà la fase con cui si concluderà il permesso di ricerca. Pozzo pilota di cui già abbiamo indicazioni, cioè sappiamo che saremo in una parte sommitale a circa 600 metri di battente d'acqua, sappiamo già che il pozzo andrà a profondità nella roccia del Marsile intorno ai 1500-2000 metri e a quel punto diciamo avremo captato davvero i fluidi. Li studieremo e studiando e capendo la temperatura, la composizione dei sali e l'interazione quindi che può avere con il sistema, riusciremo a progettare in maniera ottimale le piattaforme produttive che si spera verranno. Senta, il Tirreno abbiamo detto è pieno di questi vulcani, qual è il potenziale del Tirreno se venisse sfruttato pienamente? So che non mi può dire un numero perché bisognerebbe prima fare gli studi, ma voi a naso avete un'idea? Ma guardi, sì, dal punto di vista indicativo abbiamo fatto qualche valutazione, qualche scenario, stiamo parlando di un qualcosa che può avvicinarsi tra l'8 e il 10% di quella che è la produzione elettrica oggi in Italia. Grazie Paltrinieri. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Beh, un'osservazione per concludere questa fondamentale assenza dello Stato, dell'Europa e anche delle grandi aziende su questo settore è davvero curiosa, perché siamo di fronte a un'opportunità che potrebbe avere una rilevanza strategica per il Paese e sarebbe utile che ci fosse un po' più di movimento intorno. Questo è tutto, buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì.